peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi protagonista è il pianoforte e sono quattro esempi di pianismo delle ultime generazioni più o meno. Sono spesso quasi tutti musicisti piuttosto poco conosciuti e, che però presentano degli aspetti interessanti. Una cosa direi che li accomuna, ma un interesse che riguarda prevalentemente il pianoforte, ma forse non solo nell'ambito di quello che accade attualmente nella musica jazz, è una sorta di vicinanza, di come dire, ormai condivisione di un linguaggio più classico, di riferimenti che sono musicalmente legati più all'ambiente classico, accademico. Quindi in sostanza succede che quello che è stato ricercato per tanto tempo come la third stream, come la terza via che potesse congiungere il linguaggio jazzistico con quello più accademico, più colto, più occidentale, per così almeno per quello che si diceva, e diventa di per sé un punto raggiunto come conseguenza della ricerca che il jazz ha fatto in tutti gli ultimi anni nel cercare delle nuove frontiere alle quali attingere poi il materiale per rielaborare le proprie musiche. Cominciamo con un pianista, si chiama John Escreet, è un pianista nato in Inghilterra che si trasferisce però negli Stati Uniti ormai a metà, diciamo nel 2005-2006, e lavora nell'ambito newyorkese collaborando con moltissimi musicisti, praticamente collabora con la maggior parte di quelli che sono musicisti legati perlomeno a una certa certo ambiente del mainstream. Direi sono già diverse le prove che ha dato, anche tra l'altro con notevoli risultati, per esempio anche collaborando con musicisti dell'avanguardia come Tishan Sorey. In questo caso esce un lavoro che con anche una parte, una componente di d'archi, e che vede la collaborazione anche di Chris Potter e di Dave Binney, due musicisti che hanno in sostanza l'hanno sostenuto anche in passato in quello che è stato il suo evolvere come musicista. Altro personaggio di primo piano, proprio anche come arrangiatore, come costruttore di situazioni musicali, è Adam Roger, chitarrista ormai che ha una lunga esperienza alle spalle e una lunga collaborazione con Dave Binney, naturalmente. Questi sono i musicisti di punta, poi anche un intervento vocale di Geneviève Artadi o di Louise Scott. Ascoltiamo adesso anche, poi ci sono anche come interventi Josh Rosseman al trombone, che non è certamente da poco, o Shane Hensley alla tromba. Ascoltiamo alcune di queste composizioni che, come dire, si muovono con estrema libertà nei linguaggi che vanno dal minimalismo al rock jazz, alla musica più contemporanea, quindi con molta spregiudicatezza e molta libertà. Ascoltiamo queste tre composizioni. Thank you. questo era il gruppo di John Escreet nell'ultimo lavoro uscito recentemente per la Wirewind Recording, intitolato Sabotage and Celebration. È una musica che risente sicuramente anche di un'influenza della scuola inglese, faceva ricordare in certi momenti anche le musiche dei grandi degli inizio anni 70, fine anni 60, come i Colosseum, queste forme orchestrali che prendono anche certi linguaggi del pop, del rock. Comunque un lavoro ben riuscito, direi. E appunto John Escreet dà prova di una capacità pianistica che si muove piuttosto liberamente anche su linguaggi diversi, insomma, che provengono sicuramente con una lunga esperienza anche nel jazz, ma anche in altro. Come peraltro accade forse al più giovane di quelli che ascoltiamo oggi, un altro pianista, Aaron Parks, pianista che si fa notare tra le fila del gruppo di Blanchard, quindi viene da una formazione, pianista americano, che viene da una formazione di tipo mainstream, di tipo del jazz più tradizionale, più forte anche da un punto di vista dell'attenzione del pubblico. È entrato nel grande circo, come così si può dire, dell'etichetta ECM di Manfred Eicher, e quindi anche più vicino a un pubblico europeo, e ha proposto recentemente, diciamo che sono diversi lavori che lo vedono presente nelle ultime uscite dell'etichetta tedesca. L'anno scorso, nel 2013, è uscito un disco che ha avuto una certa attenzione, un'ottima attenzione, direi, da parte della critica, disco intitolato Arborescence, ed è in piano solo, quindi ambizioso come proposta, e ascoltiamo un brano composto naturalmente da Aaron Parks. Anche in questo caso si sente fortemente un'influenza di un linguaggio classico, e quindi anche di una formazione che non può prescindere da quella che è l'aspetto accademico della formazione pianistica. Thank you. Indubbiamente questo linguaggio di Aaron Parks risente molto anche di quelle che possono essere le influenze delle etichette CM, che è opportuno ricordarlo, all'inizio degli anni 70 ha dato via anche a questa lunga serie di pianisti di alto livello. Penso per esempio ai primi lavori di Chick Corea in piano solo, oppure addirittura i lavori di Kay Jarrett, che gli hanno dato, come dire, tuttora rimane per piano solo una delle esperienze più importanti della storia del jazz ed una delle fonti di ricchezza maggiori per le CM. Altro musicista, questo è il più anziano che ascoltiamo, ma anche, devo dire, da me poco conosciuto, colpevolmente. Si tratta di un musicista greco, trapiantato comunque a Boston da diversi anni, da parecchi anni. Si tratta di Pendelis Karaiorgis. È un pianista che ha basato praticamente in tutte quelle che sono le esperienze legate all'avanguardia, lavorando e producendo lavori interessanti, collaborando con molti musicisti e anche però proponendosi come leader di formazioni. La sua discografia è veramente sterminata. Sicuramente non sono dischi di primo piano, insomma, perlomeno non hanno avuto la visibilità in Italia di primo livello, però le qualità sono indubbie. Recentemente, negli ultimi 10 anni più o meno, è più frequente la collaborazione con Ken Vandermark e il suo entourage musicale. L'ultimo, un disco uscito molto recentemente, quindi poche settimane fa, si intitola Circuitus ed è uscito per la Drift Record. E collaborano in questa formazione, in un quintetto, Dave Rampis al sax tenore, contralto, baritono, Keefe Jackson al sax tenore o clarinetto, e poi Nat McBride al contrabbasso e Frank Rosali alla batteria. Quindi una formazione decisamente molto titolata, che vede sicuramente l'influenza dei musicisti dell'ambito chicagoano. Penso per esempio a Frank Rosali alla batteria, ma anche a Keefe Jackson e a Dave Rampis. Il risultato è notevole, a mio avviso. C'è il modo di sentire una personalità forte da parte del pianista di Karaiorgis, e anche le musiche, le composizioni sono, come dire, ben ascrivibili alla storia dell'avanguardia, del jazz, del free jazz, e con appunto però un carattere personale interessante. Ascoltiamo un paio di composizioni prese da questo disco. Questo era il quintetto di Pandelis Karaiorgis nel disco intitolato Circuitus, uscito recentemente. Una formazione interessante, legata diciamo all'ambito più chicagoano. Questo direi che è il disco più prettamente jazzistico per oggi, con un'influenza classica più diciamo relativa, più di basso profilo quantomeno. cosa che invece non accade per l'ultimo lavoro di Vijay Iyer, che è anche il musicista più conosciuto che ascolteremo oggi, l'ultimo lavoro uscito per etichetta ICM, che è una sorta di suite di composizione fatta in più movimenti, Mutations si intitola. È stato salutato questo lavoro con molto entusiasmo da parte della critica ed è sicuramente uno dei lavori più celebrati usciti negli ultimi mesi. È un lavoro particolare, intanto perché la scelta artistica di Vijay Iyer nel primo disco che lo vede partecipare appunto all'etichetta ICM, entrare nel mondo di Manfred Eicher, è un lavoro che è più legato a un'espressione classica, forse diciamo che le influenze sono maggiori quelle della musica minimalista rispetto a quanto può essere quella della musica jazz, ma d'altra parte poi non sarà certo a Salpinus che si fanno delle distinzioni stilistiche, visto che la definizione di jazz è quanto mai ambigua nell'evolvere dei tempi. Però la domanda che ci si può fare è se è il contesto e quale confronto si può fare per un progetto e un lavoro di questo tipo, perché il confronto diventa più difficile poterlo fare con altri pianisti di jazz più che con, per esempio, compositori nell'ambito contemporaneo che si propongono con linguaggi più legati comunque alle nuove tendenze della musica contemporanea. Schema di lettura, l'ascolto, pure semplice ascolto, ne dà un risultato, a mio avviso, con una certa dilatazione delle atmosfere, alcuni momenti di altissimo livello, ed è appunto questo l'occasione per ascoltarne un paio di questi movimenti, che vedono appunto la collaborazione di Vijay Iyer al pianoforte, alle tastiere, con un quartetto d'archi. Ascoltiamo questi due movimenti. Thank you. Bene, e questo era Vijay Iyer nel suo ultimo lavoro, Mutation, uscito per l'etichetta ECM, quindi abbiamo cominciato con i violini e finiamo appunto con i violini. Salpinaz, appunto, l'attenzione rispetto ai nuovi linguaggi del jazz ci fa avvicinare anche appunto ad esperienze come dei quattro pianisti che abbiamo ascoltato oggi. Questo era anche l'ultimo ascolto, vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione, ascoltarla e anche le note sui dischi trasmessi le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Salpinaz. Jazz on megahertz. Salpinaz. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.